Per iniziare bene una giornata bisogna cominciare dalla parte giusta. Nasce oggi Piede Sinistro, la nuova striscia di approfondimento prodotta da Fandango, un appuntamento quotidiano su notizie e temi d'attualità, da lunedì al venerdì sulle principali piattaforme podcast. Peraldi ci hanno raccontato una favola, ci hanno detto che la Silicon Valley era il tempio del progressismo, dell'orizzontalità, oppure come le citava lo storico motto di Google, non essere cattivo, don't be evil. Ci hanno convinto che ogni applicazione fosse un regalo per facilitarci la vita. Ma oggi quella maschera è caduta, l'algoritmo non è un servizio, è una dottrina. Sotto la superficie del codice non c'è una utilità neutra, ma un preciso impianto politico ed economico. Benvenuti e benvenuti alla prima puntata del Codice Nero. Questo è Piede Sinistro, cominciare dal lato giusto. Come possiamo chiamare il connubio tra big tech e capitalismo? C'è chi lo chiama tecnofascismo, c'è chi preferisce tecnofeudalesimo. E proprio da quale etichetta usare che iniziamo questo racconto? Partiamo dal presupposto che probabilmente nessuna categoria politica del Novecento è spendibile per l'argomento di cui stiamo parlando. Abbiamo davanti a noi un fenomeno completamente nuovo, nato ed esploso negli ultimi 15-20 anni. Tecnofascismo è un termine sicuramente molto suggestivo, dove per fascismo, non quello storico, si intende un mix di autoritarismo, controllo, deriva securitaria, classismo e capitalismo, appunto. Allo stesso tempo c'è chi preferisce chiamarlo tecnofeudalesimo, più semplicemente capitalismo digitale, perché non è altro che l'ennesima trasformazione e riposizionamento del capitalismo contemporaneo. Tecnofascismo, come detto poco fa, è sicuramente molto evocativo, nonostante il termine fascismo al giorno d'oggi non è più stigma di niente e nessuno, anzi, il fascismo viene sventolato con orgoglio, sessismo, razzismo, nazionalismo, sono ormai la chiave dei governi occidentali e non. Per Irene Dota, nel suo Onnipotente, il termine tecnofascismo mette a fuoco qualcosa di specifico. E ovviamente non tramite una parola, sia tecnofascismo che sia tecnofeudalismo, non si ha l'ambizione di voler mettere insieme un fenomeno così complesso come è appunto la deriva autoritaria che poi descrivo nel libro. Però in realtà io ho pensato che questo termine che appunto mettesse insieme alcuni elementi che sono abbastanza indicativi di quello che poi descrivo, della traiettoria che descrivo nel libro, che sono principalmente le simpatie antidemocratiche di tanti dei capitalisti digitali che sono i protagonisti del libro, a partire da, ad esempio, Peter Thiel, quindi il loro, diciamo, chiaro disprezzo per la forma di governo e la forma di abitare comune della democrazia, e il disprezzo per i diritti umani, che si vede non soltanto dal punto di vista ideologico, ma anche dal punto di vista pratico, nel senso che si sa che molte delle tecnologie sviluppate dai tecnomiliardari di cui parlo e commercializzate in tutto il mondo poi servono per reprimere, uccidere, compiere genocidi, azioni che sono contrarie, che violano i diritti umani e in particolare i diritti delle minoranze. E poi anche un'altra caratteristica che è anche sempre stata tipica del fascismo storico, che è appunto l'alleanza. In questo caso l'identità con il grande capitale, in questo caso il grande capitale tecnologico. Quindi ho pensato che appunto la definizione di tecnofascismo fosse calzante per questi motivi, ecco, perché ha comunque le multiple ideologie che descrivo, secondo me hanno molto in comune anche con quello che noi in Italia e in Europa descriviamo come fascismo. Maurizio Graffio Mazzoneschi, una vita nell'hacking, esperto di comunicazione digitale, consapevole della complessità dell'attuale fase storica, segnala il libro di Yanis Varoufakis, che si chiama proprio Tecnofeudalesimo, in cui l'autore afferma che il capitalismo delle big tech ha ucciso il capitalismo come l'abbiamo conosciuto finora. Esiste ormai un oligopolio che non si basa più sul mercato, queste grandi piattaforme sono del tutto riconducibili a quelli che erano i feudi. Ripeto, queste grandi piattaforme sono del tutto riconducibili a quelli che una volta erano i feudi. Infatti non producono più secondo il vecchio modello di business, dove tu produci un prodotto, lì lo vendi sul mercato ed estrai plusvalore dal lavoro. Le grandi piattaforme come gli store online o i social offrono una rendita. In questo senso sono simili ai feudi, chi vende su Amazon è assimilabile al vassallo che corrisponde una percentuale, il canone, al signore feudatario. Varoufakis ipotizza che le big tech abbiano questo capitale tossico e concentrato che chiama cloud capital, con cui hanno sostituito i mercati appunto con i feudi cloud. Il vecchio capitalismo non sparisce, ma diventa vassallo perché deve pagare una rendita ai capitalisti dei cloud. Kenobit, che all'argomento Big Tech ha dedicato il suo assalto alle piattaforme, invece preferisce usare, senza scomodare definizioni troppo complesse, semplicemente capitalismo. Nel digitale vediamo un concretizzarsi degli stessi meccanismi che abbiamo osservato in tutti gli ambiti offline del capitalismo, perché l'attuale struttura delle grandi piattaforme e del capitalismo digitale ha riprodotto degli schemi che già ben conosciamo. Da un lato lo sfruttamento, quindi l'utilizzo delle risorse spropositate che hanno per estrarre valore dal popolo, quindi tutte le dinamiche di manipolazione e sfruttamento che ci sono dietro la pubblicità, il furto dei dati, la selezione algoritmica dei contenuti, eccetera, eccetera, eccetera. Se fino a 15 anni fa, più o meno, gli ometti della Silicon Valley come Elon Musk o Mark Zuckerberg si davano un'aura di progressismo, ora hanno fatto cadere la maschera. Sono ultracapitalisti pronti ad asservirsi alle autorità pur di mantenere uno status quo vantaggioso per loro. La parola di cui abbiamo bisogno è capitalismo digitale, ci permette di mettere a fuoco il problema senza fare l'errore di separare il fisico dal digitale, appunto, come se fossimo ancora negli anni 90. Oggi la burocrazia e i soldi passano dal digitale, non abbiamo più il lusso di distinguere le due dimensioni. Neanche Dario Guarascio, autore di Imperialismo digitale, economia e guerra ai tempi delle piattaforme e dell'intelligenza artificiale, è convinto che tecnofascismo sia il termine più adatto. Perché se la condivide dal punto di vista degli aspetti fenomenologici ed estetici che stiamo osservando, basta pensare al legame molto forte che c'è tra i padroni delle big tech e gli apparati di sicurezza militari, ma anche la partecipazione attiva delle stesse big tech di soggetti tecnologici chiavi come Palantir nel supportare o nel partecipare ad attività repressive come quelle che l'ISIS sta conducendo negli Stati Uniti, oltre a partecipare attivamente alle attività militari o quelle di apartheid e controllo sociale che l'esercito israeliano compie in Palestina. Come sottolinea Guarascio, questa non è una mutazione genetica improvvisa. Il legame tra Big Tech e apparati repressivi, pensiamo ancora a Palantir, è la versione 2.0 di dinamiche antiche quanto il capitalismo. Dalle navi della Compagnia delle Indie agli algoritmi predittivi, il fine è lo stesso: usare la tecnologia per colonizzare territori, estrarre valore e neutralizzare i nemici. Oggi questo dominio ha cambiato volto, si è fatto invisibile, veloce, algoritmico. Ma la sostanza è la stessa, il controllo totale sulle risorse, sul lavoro e, come vedremo, sulla vita e sulla morte. La fase in cui le big tech si presentavano come soggetti libertari, come portatori di un capitalismo basato sull'individuo e molto lontano dalla politica e ancora di più dal complesso militare-industriale, in realtà era semplicemente una maschera che le centrali di accumulazione capitalistica vestivano in quel momento perché era strumentale alla necessità in quella fase. Ma la possibilità di una svolta repressiva e l'uso, oppure l'uso delle tecnologie per delle funzioni autoritarie e con guerra fondaie, diciamo così, era già dietro l'angolo. Sicuramente, come affermano altri e altre delle varie comunità digitali, sia tecnofascismo che tecnofeudalesimo sono etichette piuttosto strette. Il primo perché ne disconosce soprattutto il carattere nazionalista autarchico del fascismo storico, il secondo altrettanto, visto che i feudi non avevano aspirazioni globali ed entrambi avevano una centralità chi nello Stato, chi nel feudatario, che rappresentava l'autorità suprema del territorio. A lui infatti spettava l'esercizio della giurisdizione, l'installazione dei tributi e il controllo delle risorse naturali, quali boschi, fiumi o terre coltivabili, oltre al mantenimento dell'ordine pubblico. In questa serie non ci fermeremo alla superficie, nelle prossime puntate scaveremo nell'ideologia politica che muove i nuovi padroni del mondo e andremo ad analizzare come gli algoritmi abbiano trasformato il lavoro in un nuovo tipo di cottimo digitale. Arriveremo poi al fronte per capire come l'intelligenza artificiale sta ridisegnando la guerra e il controllo dei confini. Questa era Piede Sinistro, cominciare dalla parte giusta. A domani!